Con noi Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare del film The Constitution, due insolite storie d'amore di Rajko Grilic in sala dal 5 aprile. Paolo, ben ritrovato. Ritrovati a tutti voi, grazie per l'attenzione che ancora una volta riservate ai film da noi distribuiti. Raccontiamo un po' questa storia. Sì, intanto sottolineo che anche in questo caso, come era stato per Tony Blair, Cineclub Internazionale distribuisce questo film in associazione con Tycoon Distribution. Questo film, che si intitola con il titolo internazionale The Constitution e poi con sottotitolo Due insolite storie d'amore, è quindi Rajko Grilic, che è un regista della generazione dei Goran Markovic, Emir Kusturica, Goran Paskalovic, l'ultima generazione dei registi jugoslavi. Infatti Grilic ha fatto in tempo a essere candidato, cioè a essere in concorso a Cannes in rappresentanza della Jugoslavia. Adesso figura come regista croato. E questo film, infatti, nel suo titolo originale croato è La Costituzione della Repubblica Croata. In realtà è una costruzione molto particolare di una commedia, seppure drammatica, che si svolge all'interno di un palazzo, come come una illustrazione plastica delle classi sociali e della suddivisione. Che Marx aveva disegnato delle divisioni delle classi sociali, c'è cioè in alto l'appartamento nobile dove vive un professore, tra l'altro nostalgico degli Ustascia, un po' tradizionale, un po' nazionalista, sicuramente xenofobo, e in basso, in fondo, nel sottoscala, per cui la loro finestra dà sul marciapiede, vivono una simpatica coppia, un'infermiera e un aspirante poliziotto. L'aspirante poliziotto è serbo e siamo in Croazia, quindi già questa coppia mista già è un problema in sé. Ma il poliziotto deve imparare a memoria la Costituzione croata e soprattutto nella parte che riguarda i diritti, che anche lui, in quanto straniero in quel caso in Croazia, avrebbe. E però il professore, che ha tutti questi elementi, diciamo, che semplificando diremmo di destra, è però un omosessuale che ha perso il suo compagno Bobo e lo ricorda con tristezza e con stringimento. Ecco, questa situazione per nulla consueta dà vita poi alle dinamiche del film, in cui il professore alla fine, per una serie di circostanze che chi vedrà il film apprezzerà, sarà costretto di fatto a fare lezioni di costituzione e di diritti che lui stesso non condivide all'aspirante poliziotto serbo. E in questa situazione, tra l'altro lui stesso che sarà vittima all'inizio del film di fatto di un'aggressione omofoba e che lui tende comunque a nascondere, ecco, in questa situazione Grilic riesce a tirar fuori quello che c'è in una società europea di oggi. L'ambientazione è Zagabria, ma potrebbe essere qualsiasi altra capitale europea di oggi, e riesce a creare il contrasto, a raccontare il contrasto anche con molto umorismo, con molta umanità, tra una Costituzione piena di ideali bellissimi. La Costituzione croata non è molto di oggi, non è molto diversa da quella italiana, e noi la definiamo la più bella del mondo, in realtà è un piena di ideali che però nell'applicazione si ritrovano meno, e quindi è questo contrasto che Gilli ci racconta in questo film. E la simpatia che fanno anche questa coppia dell'infermiera e dell'aspirante poliziotto è dovuta anche al fatto che il loro aspetto fisico tende ad attrarre la nostra simpatia. A parte l'aspetto fisico, poi c'è anche il loro essere umanamente pronti all'accettazione dell'altro, alla comprensione, cosa che invece il professore uscita sarà? In chiusura, Paolo, ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Benissimo. Questo per quanto riguarda The Constitution, due insolite storie d'amore di Raiko Gerlich, in uscita in sala il prossimo 5 aprile. Paolo Minuto, un abbraccio, a risentirci presto. A risentirci presto, presto, grazie a tutti voi, buon lavoro.